il fico primaticcio che Dio si aspetta. Ahimè! Io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, come dopo la racimolatura, quando è finita la vendemmia. Nunc, è più grappolo da mangiare. Io desidero invano un fico primaticcio. L'uomo pio è scomparso dalla terra. Nunc, è più gente retta fra gli uomini. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue. Ognuno dà la caccia con la rete a suo fratello. Le loro mani sono pronte al male. Per farlo con ogni cura, il principe ha delle pretese. Il giudice si lascia corrompere. Il potente manifesta la sua ingordigia e ordiscono così le loro trame. Michea 7, 1 a 3. Prima di entrare nel merito delle nostre riflessioni, occorre fare una premessa. Sic è una cosa che Dio non tollera e, possiamo dire, odia, è l'ignavia. Troviamo questo atteggiamento nella parabola dei talenti, nella quale Dio condanna severamente colui che non ha fatto fruttare ciò che aveva ricevuto. Matteo 25, 30. Nella parabola del fico che non faceva frutti, figura di Israele, e che Dio taglia perché ozioso. Luca 13, 6 a 9. Nell'episodio del fico in cui non si trovano dei fichi primatici e che Gesù maledice, Marco 11, 13, 21, nella distruzione di Sodoma e Gomorra perché vivevano nell'ozio, Ezechiele 16, 49, nella parabola delle diverse ore dove proprio per questa avversione per l'ozio, Dio si lamenta del suo popolo narrando due parabole tratte da immagini che riguardano la vita quotidiana. Lo trova come uno che cerca frutti da una pianta, da cui sono già stati raccolti. Vi è poca cosa. Non solo. Lo trova anche come uno che cerca un grappolo di uva in una vigna dove non solo si è vendemmiato, ma addirittura anche racimolato, cioè dove si è passati una seconda volta. In pratica Dio si lamenta del suo popolo non perché trova poco, ma proprio niente. A questo punto Dio esclama ancora più sconsolato: «Io desidero invano un fico primaticcio». Il fico è una pianta che ha una particolarità. Esso non solo fa i frutti nella sua stagione, ma qualche mese prima del raccolto dà alcuni fichi molto buoni, chiamati appunto fichi primatici. Il fico primaticcio è quindi la prova che la pianta nella sua stagione farà dei frutti. È proprio per questa ragione che Gesù maledice quel fico dal quale aveva cercato dei fichi, anche se, come dice l'Evangelista, non era la stagione dei fichi. Marco 11, 12, 14. La pianta, non avendo prodotto dei fichi primatici, preannunciava che non ne avrebbe fatti. Sta scritto che il bambino con il suo comportamento dà da conoscere come sarà da grande, Proverbi 20 e 21. E ha quindi un fatto naturale che una persona manifesti fin da piccolo le caratteristiche che avrà da adulto. Alcuni pensano che la conversione possa fare miracoli quali trasformare immediatamente e completamente un uomo. La conversione trasforma sì una persona, ma non la spersonalizza, lascia intatta la sua personalità, le sue caratteristiche naturali. Se uno è un musicista, prima di convertirsi lo sarà anche dopo la conversione. Ricordo che quando ero studente la mia professoressa ci insegnava delle parole insolite e ci fece scrivere, scherzosamente, il seguente pensiero: «Ellero ha delle idee balzane». In effetti in vari temi avevo un buon voto, non tanto per l'eccellente italiano, ma per l'originale approccio al tema proposto. Questa mia particolarità nel valutare le cose da un'angolatura insolita mi sta accompagnando tuttora. E questo non è un merito, come alcuni pensano, né un demerito, come altri giudicano. Si tratta solo di una mia caratteristica che metto al servizio di Dio. Altre esperienze hanno confermato questa regola. Un giorno sono andato a trovare una persona che alleva cani da caccia ed egli, con orgoglio, mi fece vedere dei cuccioli. Mi disse che avrebbe regalato il tal cane a Tizio, l'altro l'avrebbe venduto a Caio e così via. Poi mi disse: «Vedi quello? Sarà l'unico che terrò». Alla mia richiesta di conoscere il motivo di quella scelta, mi fece notare il modo in cui annusava. In effetti annusava con un vigore che gli altri cuccioli non avevano. Il mio amico, esperto com'era, capì dal frutto primaticcio che sarebbe diventato un buon cane da caccia. Dio stava parlando al popolo di Israele in questi termini. Egli desiderava dal suo popolo un piccolo segno che annunciasse un futuro di fedeltà al suo Dio, ma sia l'uomo comune sia quello con delle responsabilità non preannunciavano nulla di buono. Come ci toccano da vicino queste riflessioni? Non è difficile comprendere quale comportamento avranno in futuro i neofiti. Se hanno attitudini allo studio e alla riflessione, potranno diventare ministri del Vangelo. Se sono sensibili verso i problemi altrui, potranno avere un compito di conduzione o di pastore delle anime. Se hanno un forte impulso per le anime perdute, potranno essere strumenti nelle mani di Dio per portare il Vangelo. Se hanno invece tendenza alla critica e alla negatività, non avranno certamente il dono di esortazione. Se non sanno accettare ingiustizie e si ribellano alle autorità stabilite da Dio, al primo problema di rilievo con la Chiesa la abbandoneranno. L'Apostolo Paolo, che era fortemente consacrato alla causa di Dio dopo la conversione, ha mantenuto questa sua disposizione, come del resto Pietro, che ha mantenuto il suo zelo. Così vale anche nella vita secolare. Se due sposi non hanno imparato subito a comunicare, a perdonare e sopportare, in seguito arriveranno alla separazione. Chi ha attitudini verso la manualità potrà eccellere in lavori pratici, mentre chi ha disposizioni allo studio potrà diventare un insegnante. Noi dobbiamo esaminare i nostri fichi primatici per conoscerci e dare del nostro meglio. È chiaro che un discorso del genere è rivolto principalmente ai giovani, dai loro fichi primatici. I più anziani possono individuare le loro attitudini e contare su di esse. Ma quali segni premonitori manifestano i giovani cristiani di oggi? Mozart fin da bambino lasciava intendere che sarebbe diventato un grande musicista. I giovani cristiani di oggi dimostrano con il loro comportamento che diventeranno uomini di Dio. I giovani di oggi hanno i fichi primatici di amare Dio sopra ad ogni cosa, come i propri sentimenti amorosi, la loro carriera, i divertimenti. Un gruppo di giovani decise di andare al mare una domenica mattina per prendere un po' di sole. Conoscevo questi giovani e come la vita di chiesa non li coinvolgesse più di tanto, non sentii il diritto di rimproverarli perché abbandonavano il culto, mi limitai a dire loro: la parola di Dio ci dice di essere di esempio. Che esempio state dando? Quando un giorno diventerete conduttori di una chiesa e sarete in età avanzata, che esperienze potrete raccontare per incoraggiare i giovani a frequentare la chiesa? Il vostro comportamento di oggi non mi indica che la chiesa per voi non è e non sarà importante in futuro per voi? Credo però di aver sbagliato riflessione, perché credenti del genere non sentiranno il peso di condurre una chiesa. I loro frutti primatici parlavano chiaro. Grazie a Dio però che non tutti i giovani sono così, ma quelli fedeli sono pochi. Che Dio ci dia di vederli e di fare questa preghiera. O Dio, dammi la capacità di vedere cose buone in luoghi inattesi e talento in persone insospettate. E dammi, Signore, la capacità di dirglielo. Dio odia l'ozio, la pigrizia, l'inattività. Questo suo atteggiamento non è cambiato, soprattutto ora che è vicino il ritorno di Cristo. In quel giorno i credenti saranno demotivati dalla malvagità degli uomini, dalla loro indifferenza verso la verità, dall'amore che gli uomini avranno per il piacere. Saranno tentati di gettare la spugna, di tirare i remi in barca e lasciare che le cose vadano come devono andare. Ma l'esortazione di Gesù ci deve spronare. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Quale mai il servo fedele e prudente, che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Matteo 24, 42, 47. Molto probabilmente la tentazione di rilassarsi è forte. Certo, dopo varie esperienze negative nel regno di Dio, si è tentati di lasciarsi andare, ma le promesse di Gesù, così vere e allettanti, devono scuoterci violentemente dal torpore e spronarci a lavorare per Lui. A volte mi chiedo a cosa serve scrivere e studiare tanto, ma proprio perché ho presente l'avvertimento di Gesù desidero che al suo ritorno egli mi trovi occupato a lavorare nel suo campo. I frutti che egli raccoglierà onoreranno il fico primaticcio. Giugno 1996. Ellero,